allora, come potete sentire dal sottofondo rumoroso, siamo collegati con la città universitaria. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti e tutte. Ciao, buongiorno. Allora, lo sciopero questa mattina si è svolto e dunque adesso i lavoratori e lavoratrici, peraltro accompagnati anche da studenti e da altri lavoratori che si sono mossi in solidarietà, stanno percorrendo i viali dell'università in corteo. Come sta andando? Bene, da questa mattina c'è stata comunque una buona adesione. Siamo rimasti tutta la mattinata qui in giro per la città universitaria perché purtroppo non ci stupisce questo comportamento, però i lavoratori e le lavoratrici che hanno timbrato, che per quanto riguarda uno dei due lotti si tratta di 8 persone, quindi molte poche, molti sono in malattia, e gli è stato chiesto chiedere, in realtà non è mai una richiesta ma è più un ordine che altro, di coprire anche le postazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che stanno scioperando, quindi con un comportamento assolutamente antisindacale. Tra l'altro nei giorni passati molti sono in malattia anche perché i vari sindacati, la CGIL in primo luogo, ha fatto un'opera proprio di scoraggiamento rispetto alla partecipazione allo sciopero, perché è andata in giro dicendo che questo sciopero è illegale, cosa assolutamente falsa, e quindi insomma i lavoratori e le lavoratrici in primis che sono qui, che abbiamo accompagnato in giro per le varie facoltà per parlare anche con coloro che hanno timbrato e sono entrati al lavoro, hanno ribadito ai colleghi che il tutto è assolutamente legale, che il diritto allo sciopero è sancito, quindi che non c'è niente di illegale. Questo insomma non ci stupisce, perché già nei mesi scorsi avevamo visto che i sindacati confederali, questi ci sono qui all'università, sono appunto conniventi con le aziende. Tra l'altro, ecco, come forse sentirete, ci sono anche delle minacce in corso, perché girando per le postazioni abbiamo cercato di impedire a chi voleva coprire le postazioni di coloro che hanno scioperato di pulire i bagni, e adesso stanno minacciando ritorsioni, denunce per imbrattamenti non si sa per cosa, ma chiaramente non sussiste alcun tipo di accusa, perché dalla parte del torto ci sono loro, e questi atteggiamenti assolutamente antisindacali, e chiaramente l'unica dinamica che stanno a mettere in campo è sempre quella della ritorsione e della minaccia. Dopodiché noi andiamo avanti, insomma il corteo è nutrito, anche un po' di studenti girando per la facoltà si sono aggiunti, come dicevi giustamente tu, ci sono i lavoratori e le lavoratrici del comparto delle pulizie, ma anche quelli delle guardianie, con cui c'è che partecipano all'assemblea per l'internalizzazione che si svolge qui tra studenti e lavoratori all'università, e anche altre realtà lavorative auto-organizzate della città di Roma. E niente, noi più tardi avremo una conferenza stampa e un pranzo sociale al Pratone, quindi per chiunque avesse modo e voglia di venire a pranzare al Pratone, a respirare questa bell'aria di rabbia auto-organizzazione, il benvenuto e la benvenuta. E domani anche andremo avanti sempre con il picchetto dalle 5:45 del mattino, per poi proseguire con cortei e iniziative comunque visibili qui all'università, perché poi chiaramente l'università è la nostra, è una delle due controparti alla stessa, diciamo, alla stregua dell'azienda che gestisce l'appalto, perché fa orecchie da mercante davanti a tutte queste forme di sfruttamento e di minaccia costante nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che tra l'altro, lo ricordiamo, l'abbiamo già detto anche nei giorni passati in radio, ma l'azienda ha millantato la cassa, diciamo la mobilità, e quindi poi l'entrata in cassa integrazione per il comparto pulizie, cassa integrazione che è assolutamente ingiustificata, non ci sono evidentemente i margini per richiederla, ma si tratterebbe semplicemente dell'ennesimo tentativo di truffa e di rapina delle nostre tasse universitarie alla fine, perché insomma siamo noi studenti a mandare avanti la baracca. Eh sì, peraltro viene anche il sospetto che la cassa integrazione, dato che prevederebbe il distacco, diciamo, per così dire distacco, cioè non quelli sindacali, non che nessuno fraintenda, insomma, ma semplicemente, insomma, lo spostamento di lavoratori da un settore all'altro è una situazione che può anche essere letta nel senso dello sfaldamento, insomma, no? Di cercare magari di andare a interrompere la comunicazione riguardo una situazione che si sta compattando parecchio. Certo, viene certo. Anche a questo sospetto. Sono stati vari tentativi che hanno messo in campo e i sindacalisti in questo si sono dimostrati perfetti complici, come dicevo prima, con non solo con diciamo le false voci che hanno fatto girare in questi mesi, ma anche quelle ultime recenti riguardo a questo sciopero, ma anche perché hanno firmato un preaccordo con le aziende e i sindacati che si sono seduti a un tavolo, CGIL, CISL e UIL, rispetto alla questione mobilità. Quindi sì, è chiaro che insomma è proprio un'operazione di anche un po' di rappresaglia e un po' anche di insomma proprio di un tentativo di cercare ulteriori guadagni e profitti per un'azienda che, lo ricordiamo, ha vinto questa gara d'appalto al 26,5% del ribasso e comunque con un finanziamento che è ben oltre le necessità e i costi che avrebbero questi lavoratori e lavoratrici se fossero direttamente assunti dalla Sapienza. Quindi in questo periodo, no, di crisi in cui si parla tanto di sperpero di denaro pubblico, ci sembra assurdo e ridicolo che la Sapienza non voglia ascoltare le nostre ragioni. Oddio, non ci sembra tanto assurdo, ci sembra che ci sia una chiara volontà di mantenere questo sistema di mazzette e mazzettine tra tutti i vari amici e amichetti del rettore e dei vari dirigenti dell'ufficio tecnico, che peraltro sono indagati per varie e molteplici ragioni. Eh sì, peraltro, insomma, poi come tu dicevi, no, questa questione dell'irregolarità, queste sono invece aziende che erigono l'irregolarità a sistema, a norma, quindi ci hanno ben poco da andare a intravedere pagliuzze, dovrebbero vedere le travi di casa loro, ecco, diciamo così. Sì, peraltro scusa se ti interrompo, sì, sì, ma un'altra informazione importante è che queste aziende, facendo una rapida ricerca in rete, queste aziende sono le stesse che in passato e anche oggi attualmente in altre città d'Italia hanno adottato e adottano conflitti antisindacali, hanno dato luogo a licenziamenti ingiustificati, ci sono state vertenze, mobilitazioni a Udine, a Bologna, a Firenze, in particolare anche a Bologna un paio di settimane fa, i lavoratori della stessa cooperativa della Coop Service all'Università di Bologna hanno scioperato perché vivono condizioni veramente molto simili, anche le strategie poi di attacco e di sfruttamento si ripetono, quindi insomma ci chiediamo come mai un'azienda, perché di questo si tratta, una grandissima azienda come la Sapienza, possa far vincere le gare d'appalto, peraltro a ribasso, ad aziende che hanno trascorsi simili. Va bene, allora sentiamo comunque un sottofondo molto molto molto inquieto e questo certamente fa pensare anche a un clima effervescente, diciamo così, insomma, si ha voglia di gridare i contenuti e rivendicazioni in questo corteo che sta percorrendo i viali dell'università. Laura, ci sentiamo più tardi, magari quando iniziate la conferenza stampa, magari se noi non vi sentiamo prima ci fate un segnale. D'accordo, perfetto. Ciao, ciao, grazie, ciao, mille dello spazio. A dopo. Ciao. Dai microfoni della radio. Il primo quaderno è già pronto. Non pago.